sta diffondendosi questa questa nuova mansione importantissima nel cinema. Io spero che si diffonda rapidamente, perché vorrei intraprendere la carriera al più presto. Dopo il musico vuoi fare anche il cinematografico. L'Intimacy Coordinator. E cosa farebbe questo L'Intimacy Coordinator è l'esperto di sesso. Chi più di te, esperto di fisco, può parlare di intimità? Cosa c'è di più intimo del fisco, che è una cosa così nascosta? Si è più reticenti sul fisco spesso e con il fisco anziché sul sesso. Nessuno avrebbe mai immaginato che la trasmissione di stamattina assumesse questa postura. Posture, ragazze nude, benvenuti alla versione hot di Due di Denari. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Allora, io vorrei dire, Maria Carla ci conosce anche, ma non è che abbiamo proprio presentato il miglior biglietto da visita col presidente Miani questa mattina. Io effettivamente, Deborah, capisco l'entusiasmo che si è diffuso tra le ascoltatrici, gli ascoltatori, con i discorsi che abbiamo fatto ieri. Che è partito da te, vorrei dire anche. Sì, me ne assumo le responsabilità, però oggi sai che è una giornata speciale, cara Deborah. Ti vedo tutto elegante, anche ben pettinato. Bentornata a Due di Denari. Grazie. Sono contento di vederti qui negli studi di Via Monterosa 91. Mi trovo abbastanza bene in questo contesto. E do il benvenuto soprattutto non solo a Maria Carla De Cesari, caporedattore di Norme e Tributi. Buongiorno. Ciao Carla. Ma anche al presidente dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Massimo Miani. Buongiorno, benvenuto, bentornato. Buongiorno presidente. Grazie mille. Buongiorno. Non si è ancora alzato dalla sedia dopo aver sentito l'introduzione del programma, questo mi conforta molto, ancora siamo un po' autorevoli e leggeri. Sì, come diciamo nella che nostra cifra. Teniamo le due cose aperte. Infatti abbiamo anche un bestiario fiscale per introdurre il tema. Infatti vorrei capire se sono stati temi adeguatamente trattati, almeno fino a questo momento, a Telefisco. Guarda, io credo che ci siano già abbastanza bestialità comunque nelle norme genericamente in vigore, e quindi molto è da fare se si vuole fare una riforma, come ha promesso, garantito, confermato il ministro dell'economia Gualtieri, intervenendo proprio questa mattina in apertura dei lavori. Di rimodulazione delle aliquote IRPEF si parla da un pezzo, però mi pare che la confezione al momento non sia pronta, se ne riparla nei prossimi mesi. Ha promesso però il ministro dell'economia che entro l'anno verrà portata a casa, anche se qualcuno stamattina discute molto su molti giornali sulle disparità tra lavoratori dipendenti e quelli autonomi, ma è un tema che conosciamo da tempo. E magari Gualtieri che cosa ha detto precisamente? Allora, precisamente, ma chiedo anche il conforto di Maria Carla, che è migliore interprete fare la cronista ancora stamattina, esatto. Io da cronista, diciamo, grossolano, posso dirti che ha assicurato che entro aprile lui arriverà a un disegno di legge delega. Ora, per capirci e parlare in italiano, vuol dire che è il primo passo di un lungo cammino, perché vuol dire che poi questo va discusso in Parlamento, approvato, e una volta che il governo abbia ottenuto la delega, quel governo che sarà in carica in quel momento attuerà la delega, quindi decreti delegati. È un passaggio abbastanza lungo e articolato. Ha detto che non ho capito se interverrà o non interverrà sulle aliquote IRPEF, perché sicuramente vuole intervenire sulle cosiddette tax expenditures, che è un modo elegante di dire le detrazioni, le deduzioni, i bonus fiscali. Sì, anche se poi ha detto che insomma è un tema molto delicato intervenire, tagliare, eccetera, quindi anche lì non sappiamo bene come sarà poi l'intervento effettivo. Ma lui ha iniziato a dire, ed è un'espressione che mi ha fatto molto sorridere, che si è ritrovato nella giungla fiscale. Il ministro dell'economia e delle finanze. E allora vediamo. Lei si sente nella giungla fiscale, presidente Miani? Beh, assolutamente sì. Noi come commercialisti lo evidenziamo da anni, insomma, che il sistema fiscale ormai è diventato, è al collasso, quindi sentire il ministro Gualtieri effettivamente che dice che il sistema fiscale italiano va riformato perché ormai è diventato insostenibile, insomma, ci fa pensare che effettivamente ci sia tutta la consapevolezza a questo punto anche del mondo della politica, che bisogna metterci le mani e bisogna mettersi le mani pesantemente, perché non sono sufficienti questi interventi che vengono fatti in continuazione, anzi questo va a complicare ulteriormente le cose a mio modo di vedere. Bisogna pensare a una riforma organica, una riforma che semplifichi il sistema, che riduca il numero delle tasse, che è quindi che riduca la pressione ma anche il carico degli adempimenti, che è il grande grido d'allarme che voi lanciate ricorrentemente, perché non avete più una concentrazione in certi momenti dell'anno. No. Ormai la concentrazione è costante, continua. Assolutamente sì. Una volta si diceva che il commercialista a fine maggio andava in vacanza praticamente perché finiva la dichiarazione dei redditi. Oggi il commercialista in ambito fiscale è tutto l'anno impegnato, questo significa che gli adempimenti sono moltiplicati tantissimo nel corso degli anni. E sicuramente bisogna ridurre la pressione fiscale in Italia, ovvio che bisogna capire bene questo cosa comporta, perché se si dice che non si vogliono toccare le aliquote IVA, che vogliamo ridurre la pressione, allo stesso tempo abbiamo visto nell'ultima manovra che gran parte delle risorse sono state utilizzate per appunto la sterilizzazione degli aumenti IVA, rimane ben poco per poi dare la spinta per la crescita del paese, quindi è un ragionamento molto complesso in questo momento con la situazione di questo paese. Io ho l'impressione invece che alla fine una rimodulazione dell'aliquota IVA dovrà essere fatta, perché anche il prossimo anno, per la prossima manovra, ci saranno comunque altri 20 miliardi che dovranno essere coperti. Se non che mancheranno all'appello. Certo. Sì, perché infatti questo capisco che è forse prematuro parlarne il 30 di gennaio, però abbiamo rinviato, cioè pende anche sui conti della prossima finanziaria, quella di cui discuteremo nell'autunno del 2020, una quota pesante di aumento possibile dell'IVA, la cosiddetta clausola di salvaguardia. Presidente Miani, voi avete ricordato, lei ha ricordato anche intervenendo a Telefisco poco fa, come la pressione sia particolarmente insostenibile sui ceti medi, o forse interpreto male le sue parole, il senso è: diminuiamo la pressione sui ceti medi per dare respiro un po' a tutta l'economia e ai consumi italiani. Sì, io ho rappresentato quello che si sta dibattendo in questi giorni e che è assolutamente vero, intanto che l'IRPEF è stata completamente snaturata, doveva essere un'imposta progressiva che colpiva quindi progressivamente sempre di più i redditi più alti, ma in maniera uguale a parità di reddito. Invece negli anni, con l'introduzione di imposte sostitutive e cedolari che escono dal punto alla progressività e con i bonus e le detrazioni, si è creato un sistema che vede la progressività solo dai 55.000 euro di reddito lordo in più, che però riguarda solamente il 5% dei contribuenti. Sotto questa cifra è diventata una disparità tra le varie attività che si svolgono. Diciamo che i dipendenti sono più avvantaggiati, quindi pagano meno imposte per effetto appunto questi bonus dei quali stiamo parlando in questi giorni, delle detrazioni, pagano meno ad esempio dei pensionati e pagano meno dei lavoratori autonomi, fatta eccezione per chi ha aderito alla flat tax, che invece dai 25.000 euro in più inizia a guadagnare di più, quindi ad avere una pressione fiscale minore. Quindi c'è una situazione che va sicuramente rimodulata, perché non è corretto che ci sia disparità ovviamente di tassazione secondo la tipologia. C'è un pasticcio, tra l'altro, di flat tax, ne approfitto per annunciarlo ai nostri ascoltatori. Di flat tax parleremo nella seconda parte di questa puntata con sempre esperti di valore mondiale, naturalmente. Sapete, sono tutti radunati qui a Telefisco. Qui a Due di Denari poi non scendiamo mai al di sotto del valore mondiale dell'esperto, quindi 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 se volete inviarci messaggi via SMS o WhatsApp, peraltro numero che conoscete, perché vedo che già cominciano ad arrivare i messaggi. Ecco, ci ha ricordato il presidente Miani, Debora, il sistema fiscale. Noi spesso parliamo di questa contrapposizione dipendenti autonomi, ma è un tale coacervo di disparità che hai addirittura, appunto, come ha detto il presidente, i pensionati tassati peggio del lavoratore dipendente, il che già sarebbe un assurdo soltanto a pensarlo, ma è quello che purtroppo succede. Certo, tra l'altro volevo volevo anche chiedere a Maria Carla, perché questa informazione ce la stava dando prima a microfoni spenti, e forse vale la pena sottolinearla, perché mi pare di capire che assuma un particolare rilievo il fatto che adesso non abbiamo ben capito cosa ci sia nella testa del Ministro dell'Economia nei termini appunto di questa rimodulazione fiscale. Probabilmente ancora non ha terminato la concertazione con tutte le forze politiche appunto che compongono il governo, ma il punto è che ha precisato, anticipato, che vorrà sentire i rappresentanti delle forze economico-produttive. Perché hai voluto sottolineare questo appunto, questo concetto? Dunque, sì, il ministro si è impegnato a sentire le categorie economiche, gli esperti, questa è stata un po' l'espressione del ministro, probabilmente tra gli esperti e anche i professionisti. Questo è un po' un programma che tutti i ministri dell'economia, quando si apprestano a fare delle riforme importanti, diciamo, è un proclama che in qualche modo... una dichiarazione di intenti che in qualche modo, insomma, lanciano. Il problema, secondo me, è che questa dichiarazione di intenti alla fine, pur con regole ben codificate, pur essendo chiaro che poi, come dire, che ha la responsabilità politica, alla fine assume le decisioni, perché naturalmente è così, deve essere così, deve essere però una dichiarazione di intenti che si traduce nella pratica, perché altrimenti, e questo il presidente Miani lo potrà confermare, altrimenti anche le cose che potrebbero essere risolte prima che si faccia la legge, poi appunto la legge conterrà, se non corretta appunto dagli esperti o dalle categorie, dai rappresentanti delle categorie economiche, magari dei macroscopici errori oppure macroscopiche disuguaglianze. Certo. Presidente, è il quindi, test, secondo esatto. me è il test di proporzionalità che va fatto prima di sancire, ecco, questa è la legge. Quindi vi aspettate, Presidente, il minimo di essere convocati al più presto? Ma sì, sicuramente, ma non solo di essere convocati, ma di essere ascoltati. Condivido completamente quello che disse Maria Carla. Nel senso che dopo l'emanazione di una legge, il giorno successivo i giornali specialistici come il vostro, con i tecnici, molti di quali sono commercialisti, evidenziano le storture della norma e le criticità della norma, significa che se la discussione fosse preventiva, probabilmente si arriverebbe a delle norme migliori. Norme anche, insomma, penso che il contributo sia fondamentale. Purtroppo la politica... parla molto su questo, ma poi nei fatti, insomma, parla molto nel circuito della politica, no? E non si riesce, come dire, ad uscire fuori e a capire poi quali possono essere gli effetti reali di una norma scritta in un determinato modo. Chiedo un'ultima battuta al presidente Massimo Miani, che poi deve lasciarci, ma per ovviamente tutta una serie di impegni istituzionali. Posso essere un po' scettico, perché una riforma della fiscalità, volendo fare anche solo interventi su IRPEF e IVA, quindi limitiamo anche il quadro, facilmente può eccedere anche il tempo di una legislatura, può eccedere anche i 5 anni, perché è un procedimento complicato e lungo, e per vedere dei frutti bisogna essere molto pazienti. La politica attuale, non è una critica a nessuno, a chi governa, a chi non governa, ma in generale il modo di svolgere la politica attuale permette di avere un respiro così ampio, così oltre la legislatura addirittura? Ma io condivido le sue perplessità, devo dire la verità. È importante ovviamente che ci sia oggi la determinazione di voler provare, perché le parole del ministro, che annuncia che entro aprile avremo appunto un disegno di legge delega su questo tema, è già un fatto importante. Poi la politica oggi spesso fa fatica a trovare delle soluzioni condivise anche nell'ambito della stessa maggioranza, insomma, abbiamo visto diversi casi. E il tema fiscale è un tema veramente delicato, lo dimostra, insomma, quello che abbiamo detto fino adesso, cioè questa sperequazione di trattamenti tra attività diverse, significa, insomma, qualcuno tira da una parte, qualcuno dall'altra. Ad esempio il mondo del lavoro autonomo sembra, insomma, in qualche maniera sempre tacciato come il mondo che in qualche maniera evade, e quindi, insomma, più di tanto non bisogna andare ad influire sulla diminuzione delle tasse. In realtà non è così. È vero anche che abbiamo avuto questa norma sulla flat tax, che è andata ad occuparsi anche del mondo del lavoro autonomo, ma è un po' trascurato rispetto agli altri. Quindi, insomma, bisogna fare un ragionamento insomma, diverso rispetto a quello che è stato fino ad oggi, cercando di considerare tutte le attività e le categorie professionali allo stesso modo. La lotta all'evasione in questi ultimi anni è stata veramente una lotta importante e direi anche efficace, insomma, in alcune sue, diciamo, manifestazioni. Ad esempio, tutto il tema della fatturazione elettronica, secondo me, ha portato pagamenti tracciabili, insomma, si sta portando avanti, si stanno ottenendo risultati. Ovvio che la grande evasione probabilmente non sta nelle piccole e medie imprese. Certo. Questo mi sembra abbastanza. A proposito di imprese, Presidente, un'ultima domanda, fra un minuto la lasciamo andar via. Un'iniziativa però di alleggerimento del carico fiscale complessivo è stata assunta con il provvedimento di riduzione del cuneo fiscale. È una buona strada quella intrapresa quest'anno, in questa sperimentazione appunto che si farà nei prossimi mesi, che è già partita peraltro? È una buona strada, però, che, come ho detto prima, va solamente ad agevolare i redditi del lavoro dipendente, che bassi, sempre che, lì. Bassi, che insomma, in alcuni casi ormai arrivano a tassazione praticamente zero per i redditi più bassi. E quindi è una buona strada, ma a questa strada bisogna aggiungere anche altre soluzioni per le altre categorie di reddito. Mm. Il programma di Telefisco di oggi, Maria Carla, per tutti coloro che sono già collegati in streaming con il sito del Sole 24 Ore, appunto, che stanno seguendo in diretta i lavori, quali saranno i temi portanti di questa edizione? Noi abbiamo iniziato a parlare dalla stretta con delle compensazioni, quindi che è iniziata già da ora, quindi il che significa che i crediti d'imposta possono essere compensati solo una volta presentate le dichiarazioni, decorsi 10 giorni, e dicevamo con il presidente prima che questo può provocare per le imprese anche problemi finanziari, in quanto le dichiarazioni di solito non vengono presentate a maggio, ma un po' più in là. Parliamo di forfettari, che è un tema principe di questa edizione di Telefisco, e sulla piattaforma di Telefisco sono arrivati moltissimi quesiti. Parliamo di IVA, con cui inizieremo le relazioni del pomeriggio. Parliamo di agevolazione alle imprese, quindi la rimodulazione di Industria 4.0 in crediti d'imposta, il ritorno dell'agevolazione per fare reti d'impresa. Quindi questo è un programma molto ricco che andrà in qualche modo a toccare i vari temi che interessano i professionisti. Un menù di portate molto interessante. Un menù eccellente, cara Deborah. Allora, noi salutiamo il Presidente dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Massimo Miani. Grazie, buon lavoro. Grazie anche a Maria Carla De Cesari, grazie, che torna a coordinare appunto insieme a Cristiano Dell'Oste, Rosalba Reggio e tutto lo staff dei colleghi del Sole 24 Ore questo evento del nostro quotidiano. Però noi non interrompiamo qua. No, affatto, noi abbiamo da fare un giornale del radio del risparmio. Sì, comunque mi devi spiegare che cos'è il tovagliometro. Certo, sarà un piacere. È il cara cugino Deborah del redditometro. Non so se Filippo Aureggi ha uno stacchetto per sottolineare questo passaggio. Devi riflettere sull'argomento. Vediamo. E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio. Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu. Allora sì, è la canzone che è necessaria per introdurre questa notizia che riguarda... Eccolo là, sapevo io. Vabbè, per chi ha il piacere, come al solito, di osservare le sue prestazioni non cinematografiche, quelle che diceva prima. Guarda, ma... che già abbiamo cominciato con un po' su un versante pericoloso. Sì, volevi dire, sì, Deborah? Che ti eri, come al solito, raccolto in preghiera per celebrare la voce del tuo grande mito. Giorgio Gaber, certo, il maestro. Allora, no, prima di parlare di questa notizia relativa al carpooling, io però volevo anche raccontarti, e ho aspettato che uscisse il Presidente dei Commercialisti, per non essere poco ospitale nel suoi confronti, volevo raccontarti la storia di questo professionista cagliaritano, operante in campo tributario naturalmente, che ha ben pensato di evadere il fisco per 296.000 euro. Cioè, gli sono stati accertati per adesso 296.000 euro. Operava bene in campo tributario. Ma più che in campo tributario, forse lui operava un po' ai margini del campo tributario, fuori dal campo tributario. In corner, in calcio d'angolo, in tribuna, dire. Non lo so. Vabbè, insomma, la Guardia di Finanza di Cagliari avrebbe appurato che si era forse un po' dimenticato di compilare correttamente le dichiarazioni dei redditi fra il 2015 e il 2016 per 300.000 euro quasi, quindi insomma, un professionista di tutto rispetto. D'altra parte ci sono tanti pensieri e sappiamo che tutti noi, insomma, siamo assillati ogni giorno da tante incombenze, e quindi che dobbiamo fare? Non possiamo certo prendercela con questo signore così smemorato. Vuoi sapere, volevi sapere della tassa del tovagliometro? No, sì, esatto, l'hai studiata un attimo. Allora, guarda, il tovagliometro è una, sono, fa parte di quella serie di strumenti, di modalità per cui si cerca di misurare il reddito di alcune attività. Il tovagliometro è quante tovaglie usa un ristorante, ecco, se ne usa tante, se ne sporca tante, si presume che abbia tanti clienti. Allora, se poi, come il professionista cagliaritano, si dimentica di segnalare all'agenzia delle entrate che ha così tanti clienti... E magari nei ristoranti sardi hanno tanti pensieri. Ma anche, secondo me, in quelli milanesi, ma anche in quelli calabresi, siciliani, insomma, direi che qui non c'è una questione geografica. Ebbene, dicevo, se si dimentica, allora il fisco può utilizzare questo utilizzo di tovaglie, questo turnover delle tovaglie, per dire forse ti sei scordato un pezzo di imponibile. E anche il principio del bottigliometro, come dire, si calcolano in questo caso i vuoti del vetro. C'è la tassa anche delle gru, la tassa sui funghi, questo è il bestiario fiscale che abbiamo trovato sui giornali, ma direi di parlare di questa faccenda del carpooling, altrimenti non giustificheremo l'utilizzo della Torpedo Blu di Giorgio Gaber. Rinunciare all'utilizzo quotidiano dell'auto privata significa risparmiare 1.254.195 milioni di euro ed evitare l'emissione in atmosfera di 832 tonnellate di CO2 di anidride carbonica. Sono i numeri, in costante crescita, che emergono dal rapporto annuale sulla mobilità sostenibile aziendale elaborato su dati del 2012 da JoJob, servizio che in Italia offre all'azienda uno strumento completo di welfare aziendale dal punto di vista della mobilità. Che cosa ha appurato il rapporto 2019? Si è assistito ad un vero e proprio boom nell'utilizzo di servizi di carpooling nei viaggi casa-lavoro, e chissà in quanti utilizzeranno questo servizio domenica, quando si bloccherà la circolazione stradale, appunto la circolazione automobilistica in molte città d'Italia, Milano compresa. Ho trovato una polemica su Facebook. È vero che l'auto potrà essere utilizzata per andare a vedere la partita San Siro? Allora, è vero che ci sono delle strade che sono state esentate per potersi recare al San Siro in auto. Ci dovete andare in auto per forza, si raggiunge in metropolitana lo stadio in un nanosecondo. Ma guarda che siete veramente voi tifosi, no, proprio un po'. Sì, siete voi, perché pure tu ci vai alla partita. No, io devo dire che quando posso ci vado a piedi, sì. E poi spesso manco ci vado. Senti, volevo parlarti rapidamente, perché poi devi darci gli aggiornamenti sui mercati finanziari. Sono già pronta. Sì, della carica batterie, unico carica batterie per telefonini e tablet. È una cosa che avevamo già detto, segnalato. Sì, bravo. Attenzione, perché allora ieri la Commissione Europea ha deciso di presentare una proposta di legge entro il terzo trimestre del 2020, quindi dopo che Gualtieri avrà presentato il disegno di legge delega per la riforma fiscale, per l'unificazione, per così dire, dei dispositivi di ricarica, così da non avere più quella ridda di dispositivi diversi per ricaricare il cellulare, il tablet, il computer. Ognuno ha il suo dispositivo. La Commissione chiede, se possibile, di riunificare. Già le case produttrici si sono lagnate di questa iniziativa. E figuriamoci se potevano loro semplificarci la vita. Lo so che è tardissimo, però io la storia dei dispositivi antiabbandono vorrei raccontare la novità, perché c'è il via libera del Ministero dei Trasporti per l'assegnazione del contributo o del rimborso per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono. Ricorderete tutta la polemica quando la norma è entrata in vigore, in pratica tutti avrebbero dovuto veder materializzato nella propria auto questo dispositivo, che è necessario appunto avere in auto se si ha un bambino di età inferiore ai 4 anni. La Ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato il decreto per l'assegnazione del contributo. Per ottenere il bonus sarà necessario registrarsi a partire dal 20 febbraio sulla piattaforma informatica di Sogei, accessibile su www.sogei.it o su www.mit.gov.it. La semplifico così, ma ci faremo una bella puntata per darvi tutte le istruzioni per ottenere questo contributo. Segnate 20 febbraio sull'agenda, ne parleremo senz'altro, e adesso invece vi parliamo dei mercati, cioè delle borse. Vai Meazza, bravo, bravo! Due di denari. Siamo arrivati a un livello di affastellamento, scomposizione e complicazione del nostro sistema fiscale che una riforma volta a semplificarlo e razionalizzarlo appare necessaria. Il mio obiettivo è quello di arrivare già ad aprile, entro aprile, a presentare un disegno di legge delega. Questo richiede una preparazione molto intensa che stiamo avviando e che noi vogliamo svolgere nel segno, naturalmente, della serietà, dell'approfondimento e del dialogo all'interno del MEF, tra le forze politiche, ma anche all'esterno, diciamo così, del perimetro del governo e della maggioranza. E quindi ci rivolgeremo, naturalmente, ascolteremo con attenzione le posizioni, i suggerimenti che verranno dal mondo degli esperti, dalle categorie economiche e produttive, dagli studiosi e dagli esperti della materia. Era il ministro dell'economia Roberto Gualtieri. Siamo riusciti ad estrapolare una parte dell'intervento rilasciato questa mattina in occasione di Telefisco nell'intervista realizzata dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini. Senti come sono istituzionale, sei contento? Sì, nell'attesa che appunto tutto questo piano ambizioso si completi, intanto abbiamo i consueti ritocchi e ritocchini di inizio anno, ritocchini e ritocconi verrebbe da dire. Quello di cui parliamo adesso è stato un bel ritoccone che ha impermalito un po' di contribuenti, diciamo, lavoratori. Diciamo che ha preso in contropiede più di uno, secondo le stime del Sole 24 Ore, un bel mezzo milione di persone. Stiamo parlando della cosiddetta flat tax. Ah già, infatti. Sì, la cosiddetta flat tax degli autonomi, sì. In realtà appunto era un sistema di tassazione forfettaria per i redditi di lavoro autonomo, consentito fino alla soglia di 65.000 euro. Ma che cosa è successo? Che dal 2020 però tutto questo solo se sei entro i 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente e di pensione. Io non vado oltre perché qui c'è uno dei massimi esperti mondiali. Non vorrei che ci facesse la pagella poi alla fine della trasmissione, no. bella pesante per tutti. Non esageriamo. È un amico, ma non bisogna approfittarsene. Quindi do il benvenuto qui negli studi di Due di Denari a Giampaolo Tosoni, firma, posso dire storica del Sole 24 Ore, non ti arrabbi. Sì. No, anzi, è un onore. Firma storica del Sole 24 Ore, grande esperto, quest'anno per Telefisco si sta occupando, durante Telefisco, più da vicino alla flat tax. In realtà Giampaolo Tosoni si occupa di moltissimi argomenti fiscali, oggi ci concentriamo su questo. 800240024 per domande in diretta, 349-238-6666 per messaggi SMS o WhatsApp. Bene. Financo vocali. Esatto. Cosa allora, vuoi sapere? Voglio sapere, insomma, questa rimodulazione, noi ci scherziamo, utilizziamo questo termine dell'aver impermalito molti contribuenti, ma credo che effettivamente non sia stata una novità molto ben accolta da chi aveva approfittato lo scorso anno di questo regime. Qual è il clima fra gli operatori fiscali? No, certamente, come diceva Mauro, sono moltissimi contribuenti che vengono espulsi, usiamo questo termine calcistico, dal regime forfettario, perché quest'anno il legislatore ha posto come causa ostativa il fatto di possedere redditi di lavoro dipendente o di pensione in misura superiore a 30.000 euro. E questo regime era stato, che è un regime molto comodo, intendiamoci, perché tu non fai le fatture, fai delle ricevute, non hai la contabilità, fai la somma dei incassi o dei compensi percepiti, sia per piccoli imprenditori, piccolissimi o lavoratori autonomi, moltiplichi gli incassi per una percentuale, per esempio i professionisti 78%, e il reddito è quello, punto, è proprio di una facilità estrema, e quindi è stato molto seguito. Tra l'altro l'imposta sostitutiva è del 15%, ma in molti casi è anche del 5%, perché se uno non ha un passato dove ha svolto la stessa attività eccetera, è poi il 5% per 5 anni, quindi è anche un onere fiscale molto basso, ed era stato sicuramente un regime apprezzato dai pensionati, medici, dirigenti, che dopo essere andati in pensione aprivano la partita IVA per fare qualche cosa, insomma, quindi magari fatturavano i 30-40 mila euro, però ovviamente forti di una pensione sicuramente superiore a 30 mila. Ricordo poi che i 30 mila è la pensione lorda, quindi per fare 30 mila bastano 1.600 euro al mese, si può dire netti, no? Perché poi sì, non stiamo parlando di pensioni particolarmente né di redditi di lavoro dipendente particolarmente generosi, esatto. E quindi il fatto dell'incompatibilità tra il regime forfettario, questo regime comodo, anche voglio dire agevolato, in presenza l'esistenza di un reddito di lavoro dipendente o di pensione ha spiazzato quei 300, 400, forse 500 mila contribuenti che sono fuori. Quindi questa gente oggi, se tiene aperta la partita IVA e dovrà aprire, avere il codice per fare la fatturazione elettronica, il codice univoco, deve applicare l'IVA ai suoi clienti che prima non la applicava, deve ovviamente tenere una contabilità e via di questo passo. Tra l'altro, ecco, io non me lo ricordo, per quanto si è potuto utilizzare questo regime, per un anno? Solo per un anno, perché tra l'altro poi vieni espulso, ma chiedo conferma a Giampaolo Tosoni, chi l'avesse scelto l'anno scorso, ma adesso si ritrova al di sopra di questa soglia dei 30.000, viene espulso in automatico, nel 2020 non può più utilizzarlo. Sì, infatti c'è stato un ingresso molto numeroso nel 2019, perché questo limite per la verità c'era fino al 2018. È stato nel 2019 che è stata eliminata l'incompatibilità con il reddito di lavoro dipendente o pensione di 30.000, per cui c'è stato un ingresso veramente voluminoso, numeroso di contribuenti lo scorso anno, e che adesso invece viene riportato fuori, perché appunto avendo sta pensione, sto lavoro dipendente superiore ai 30.000 non lo puoi applicare. Questo è il disagio che in effetti... Poi c'è stato il tentativo, l'avrete visto tutti, da parte della stampa. No, noi del Sole siamo stati secondo me giustamente prudenti, ma da parte della stampa, anche quella non specializzata, la stampa comune, nel cercare di portare questi effetti di queste nuove modifiche al 2021, giocando sullo statuto del contribuente, no? Dicendo, siccome le norme devono avere un certo rodaggio prima di entrare in vigore, e quindi magari cercare di spostarlo al 2021. Io ero lì e dichiaro qui anche a Radio 24, come ho appena fatto a Telefisco, la mia delusione, perché né il ministro né il facente funzione del direttore generale proprio su questo silenzio assoluto, quando invece la gente che è nelle sale di Telefisco lo stava aspettando. Credo che alla fine non ci sarà il posticipo al 2021, per me la norma è già in vigore dal 2020. Anche perché è sempre stata, Mauro, se non mi ricordo male, io parlo qua veramente da Alice nel Paese delle Meraviglie, considerato un regime di vantaggio perché aveva delle condizioni reddituali già particolarmente importanti, per cui è sempre stata vista come una condizione appunto troppo vantaggiosa per chi già una condizione di vantaggio ce l'aveva implicitamente, per cui allora, forse sì, per questo. Ma in realtà è proprio cambiato, guarda Deborah, la ratio, cioè la motivazione che sottintende alla norma. Era stata questa flat tax varata con un certo fine, cioè quello probabilmente di evitare del sommerso, e a questo punto è tornata invece in un altro alveo, in un'altra direzione, cioè quella di dire noi agevoliamo ma solo le piccole piccolissime attività, non ci interessa se uno lo fa come secondo lavoro o è un lavoro che fa dopo essersi ritirato perché è pensionato. Abbiamo da chiarire un po' di termini, ce lo chiedono diversi ascoltatori, intendete reddito lordo, reddito netto, fatturato, eccetera. Vogliamo fare lo stesso il domandone? Sì, guarda, sei autorizzatissimo, lo sai che sei tu quello che si vuole trasformare tutti i giovedì nel Mike Buongiorno della situazione. Non prego. So se c'è l'effetto, forse sì, adesso Filippo Aureggi fa un miracolo. Li abbiamo perché presi alla sprovvista, siamo stati anche un po' monelli. Li abbiamo presi in contropiede come il legislatore quando ha modificato appunto la flat tax, perché nessuno se lo aspettava. Ma che brillantone che sei, vai! E allora, rapidissimi, se volete aggiudicarvi una copia dell'imperdibile volume di Deborah Rosciani e Mauro Meazza, risparmiare è facile, se sai come fare, e la prima cosa da fare è quella appunto di aggiudicarvi questo volume, allora telefonate a 800 24 0024 e diteci qual è il limite di fatturato che è ammesso per entrare in questa flat tax degli autonomi. Quello lì, vi aiutino, non è stato cambiato. Ah, ecco. Non è stato cambiato. Però. Traffico! Due di denari. Che l'Italia sia nella giungla fiscale penso sia cosa vecchia di almeno 25 anni. Ma secondo me il caro ministro farà accordi con i grandi gruppi, ma non con quelli che traino il paese, che sono le partite IVA e le piccole imprese. Togliete le tasse sulle pensioni, tanta gente che sta all'estero torna in Italia a spendere. Tovagliometro, mamma mia, adesso facciamo il respirometro e tante altre cose, ma quanta fantasia sta finanza, oh. Il cosiddetto tovagliometro, bicchierometro, di fatto era già negli studi di settore. La cosa più divertente che mi è capitata presso un cliente che produceva pasta fresca, in occasione di un accesso della Guardia di Finanza, non solo verificarono quante uova avessi acquistato, ma soprattutto chiesero quante se ne fossero rotte. Insomma, qualcosa che rompeva un po' le uova, dai. Grandissimo, sì. Una grande rottura di uova. Ho temuto il peggio. Allora devo ripetere come da prassi il domandone, quindi appena la regia è in grado di agevolarmi una base a concia, Filippo, io lo farò. Stamattina Mauro ha deciso di metterti alla prova, non c'è niente da fare. Sì. Dopo fate i conti, lo so. Allora mi ricordava invece a microfoni spenti, come si dicono, sì, quelli bravi, mi ricordava Giampaolo Tosoni che, attenzione, non è poi mai entrata in vigore quell'altra parte della flat tax che andava dal limite che voglio sapere, sì, fino ai 100.000 euro. Quella parte lì che era stata annunciata e programmata dalla norma per il 2020 lì è rimasta. È rimasta lettera morta, lettera come morta. Si dice. Allora la domanda è: qual è il limite di fatturato che non è stato toccato per far parte, per utilizzare la cosiddetta flat tax degli autonomi? Accettiamo solo risposte a 800 24. Quindi non rispondete su WhatsApp, perché tanto non possiamo raccogliere appunto la vostra risposta attraverso la messaggeria istantanea. Allora, scegli tu Mauro le domande, perché qua magari ne prendiamo qualcuna che possa avere un valore di carattere generale e ridia un po' tutti i termini della flat tax. Che cosa si fa adesso a questo punto, oserei dire, per chi l'anno scorso aveva adottato, Giampaolo Tosoni, questo regime? A che tipo regime passerà? Come farà a calcolare qual è la migliore situazione di convenienza per sé? Ma certamente, essendo soggetti che fanno un volume d'affari tutto sommato ridotto, il loro regime naturale è il regime semplificato, che è un regime per cassa. Però è chiaro che il primo adempimento importante che questi soggetti devono fare, ed è molto delicata la questione, è che devono applicare l'IVA. Cioè, prima il soggetto in regime forfettario, parlo dell'artigiano, parlo del professionista che faceva dei servizi, faceva la fattura senza IVA, e anche il suo committente, il suo cliente, era abituato a non pagargliela. D'ora in poi l'IVA c'è, e quindi bisogna già discutere se il prezzo che gli facevo lo scorso anno era IVA compresa o se invece l'IVA vada sommata. È chiaro che io consiglio ai forfettari che l'IVA va aggiunta, perché poi il committente la detrae. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto ovviamente è quello di organizzare per la fatturazione elettronica. E che sarebbe stata infatti la mia successiva domanda, Giampaolo, cioè adesso però si torna, devono entrare nel grande mare della fattura elettronica. Sì signore. Infatti stamattina io, Mauro, auspicavo appunto che, vabbè, impossibile pensare che questo regime secondo me slitti al 2021, quindi parte già, cioè quindi i soggetti che hanno superato i famosi 30.000 sono già non più forfettari. Però la norma sullo statuto del contribuente dice che nessun adempimento può essere imposto ai contribuenti se non prima che siano trascorsi 60 giorni dall'emanazione della legge. Per cui secondo me questa gente deve avere 2 mesi, gennaio e febbraio, per avere tempo per organizzare ad esempio la fatturazione elettronica. Non si organizza in un minuto. Ma quindi una cessione di beni o prestazioni di servizi che fosse eseguita da questi ex flat forfettari, sì, li chiamo anch'io così, ex forfettari. Ex forfettari, sì. Secondo te, tra gennaio e febbraio, nei primi 60 giorni, potrebbe non essere soggetta alla fatturazione elettronica? No. È sicuramente, Mauro, soggetta alla fatturazione elettronica, però siccome tu la fattura la devi fare al momento della cessione del bene, al momento dell'incasso del corrispettivo, poi hai tempo 12 giorni per trasmetterla allo SDI, però tu la devi fare al momento di effettuazione dell'operazione. Siamo già alla fine di gennaio, per cui molte operazioni possono essere già fatte. Quello che io vorrei che ci fosse una protezione, ma secondo me c'è, è quella di non sanzionare il povero ex forfettario per un ritardo nell'adempimento. Quello che dico io è: non c'è dubbio che tutte le fatture vanno fatte in forma elettronica, perché non esiste un altro tipo di fatturazione, se non per i medici, voglio dire, però certo, non esiste. Però darei tempo di farla proprio, e quindi col versamento dell'IVA il 16 di marzo, eccetera, proprio in virtù del fatto che il del contribuente ti dà 60 giorni di tempo per, tra virgolette, organizzarti. Quindi è legge questa. Cerco di capire, se anche uno superasse i 12 giorni consentiti per la trasmissione, ma diventassero 15, diventassero 20, tu dici ci sono buoni motivi per ritenere non sanzionabile, non punibile questo comportamento. Ho compreso. Ma Mauro, hai compreso benissimo. C'è una norma di legge che lo dice, quindi dovremmo anche fidarci delle norme di legge. È vero che lo statuto del contribuente viene calpestato spesso dal legislatore, però in realtà qui la norma è molto chiara, cioè nessun adempimento può essere imposto al contribuente prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Ma è anche logico, cioè vuol dire, la fattura elettronica comporta la richiesta del codice univoco, soprattutto per un piccolo così comporta che tu ti devi organizzare con un consulente, con un'associazione, con qualcuno che ti aiuti, perché non è poi banale fare la fatturazione elettronica, per cui un po' di tempo deve essere dato. Poi un altro aspetto è la ritenuta d'acconto. Cioè un forfettario, quando percepiva un compenso o pagava un compenso, perché a sua volta può pagare compensi, deve applicare, deve subire la ritenuta d'acconto, no? Questo non era abituato, anche quello richiede un minimo di organizzazione, il trattenimento, il versamento con l'F24, probabilmente avendo la partita IVA l'F24 è sui canali web dell'Agenzia delle Entrate, quindi voglio dire c'è un minimo di adempimenti che non possono essere stati fatti al 2 di gennaio. La norma è uscita veramente tra Natale e Capodanno. Sì, è stata pubblicata, credo, questa parte qui era una parte che è la stata seconda parte fatta nella legge di bilancio, quindi stiamo parlando del 30 di dicembre, credo, la Gazzetta Ufficiale del 30 di dicembre. Allora, qualche domanda di chiarimento, forse da queste desumiamo la necessità di rifare un po' un ABC dell'intera situazione. Cosa è cambiato dallo scorso anno? Duidio chiede: ho aperto la partita IVA forfettaria nel 2019, quindi nel 2020 per me rimane tutto invariato, dipende dal fatto se abbia un lavoro dipendente o meno una pensione. Sì, le cose più importanti che devo dire è che deve guardare se nel 2019 ha un lavoro dipendente e una pensione, peraltro non ragguagliati ad anno, superiori a 30.000, poi un'altra causa di esclusione, ma è abbastanza improbabile, non abbia pagato a sua volta lui dipendenti o collaboratori per importi superiori ai 20.000. Se non ha queste due situazioni, immagino che il signor Duilio non abbia partecipazioni in società di persone, perché altrimenti non avrebbe potuto aprire la partita IVA. Ecco, diciamoglielo pure a questo signore, non gli è cambiato nulla. Quindi può proseguire e ha anche diritto alle agevolazioni di cui si è goduto senza altre limitazioni nel 2019. Sì, anzi, diciamo che per un po' di ottimismo, il signor Duilio, come tutti gli altri, c'è un'agevolazione in più per il regime per i forfettari dal 2020, che è il credito d'imposta in presenza di acquisto di beni strumentali, mentre fino allo scorso anno questa agevolazione era per coloro i quali facevano l'iperammortamento per i beni ovviamente tecnologici interconnessi o per il superammortamento. Oggi questi iperammortamento e superammortamento è stato trasformato in un credito d'imposta che è del 40% per l'iperammortamento o del 6% per gli altri beni normali, e questo spetta anche i forfettari. Quindi se si compra un computer, per dire, può recuperare poi il 6% della spesa. Non sarà granché, però è un premio di consolazione. Abbiamo i nostri ascoltatori con la rispostona al domandone, Mauro. E allora abbiamo anche l'adeguata presentazione musicale di solito in questo momento, in questa circostanza. Fino all'ultimo devi soffrire, Filippo, stamattina. Filippo, veramente lo abbiamo martoriato, gli chiedo scusa in diretta. Allora, ho chiesto per aggiudicarvi una copia del prezioso volume Risparmiare è facile se sai come fare, per la firma di Deborah Rosciani e di Mauro Meazza, I tipi del Sole 24 Ore. Vi ho chiesto: qual è il limite, che non è stato modificato, di fatturato per entrare nel regime della flat tax degli autonomi? Walter dalla provincia di Cuneo. Buongiorno, faccio tanti complimenti per la trasmissione. Veloce, Walter. 30.000 euro. No, ho sbagliato, no. Mi spiace. Giuseppe da Bergamo. Giuseppe? Giuseppe, 65.000 euro. Ottimo, Giuseppe riceve il nostro libro in diretta. Ecco qua, già pronto e spedito, via. Grazie a tutti, grazie a Giampaolo Tosoni, grazie a tutti gli esperti che stanno conducendo Telefisco e a tutti noi coloro che lo stanno seguendo anche. Noi invece ritorniamo domani in diretta, mentre tu adesso fai gli onori di casa con Telefisco, io vado a preparare Focus Economia di stasera e anche Due di Denari di domani. Qua faccio tutto io oggi e a domani casa. Parliamo di Canone Rai. Arrivederci.